Viratevi e viratevi e viratevi, qui Alex Foti su radiovirus.org da Milano Nord. Siamo particolarmente scoglionati oggi, l'altro ieri hanno portato via altre due persone dal mega condominio. Insomma, la morsa del coronavirus su Milano, in particolare questa zona della città, non si allenta, però il resto d'Italia discute di come riaprire. Oggi il Corriere era dimezzati i posti nei ristoranti per quelli che vanno al ristorante. Beh, un ristorante comunque io ci vado ed è Rob De Matt. E ho appreso da amici in quartiere che su Sky News si è visto l'amico Nicolò che portava provviste da Rob De Matt a persone bisognose. E quindi insomma salutiamo Rob De Matt, l'unico ristorante dove ci piace andare. E niente, c'è una ripresa possibile, anche se qui l'epidemia non è domata, a partire dal 4 aprile. Ora, un collettivo di solito con cui di solito non condivido molto, ma comunque Vuming ha scritto un articolo che condivido, che dice bisogna uscire il 25 aprile. Di fatto ci sono stati compagni che hanno provato a uscire, sono stati malmenati, portati dentro, sono stati liberati oggi a Torino finalmente i compagni che avevano dato semplicemente dei volantini contro il caro vita fuori dal supermercato sono stati presi in strada, altri compagni che erano accorsi sono stati placcati a terra con anche un veicolo dell'esercito in backup. Capite bene che se questa è la quarantena che ci aspetta, o meglio la ripartenza sotto uno stato di polizia, noi vogliamo manifestare nel rispetto delle norme di sicurezza, ognuno a 2 metri di distanza con la mascherina, ma manifesteremo. E niente, il programma si compone del commento del feed Twitter, insomma seguo in varie lingue, non è che le parlo tutte bene, ma insomma al massimo c'è il translator che è cambiato, non so, prima era Bing, traduceva piuttosto male, adesso e Google traduce un po' meglio. Comunque, prima di me c'è stata la prima trasmissione Extinction Rebellion a Milano, saluto l'amico Enrico, anche lui del quartiere, uno degli animatori del movimento nato in Inghilterra alla fine del 2018. E domani sarà sciopero climatico globale per il clima, doveva essere una giornata enorme di mobilitazione al pari del 15 marzo, del 29 settembre, però ovviamente il lockdown ci costringe a manifestare online, anche se sono comparse diverse scritte in gesso sulle strade tedesche. Next strike fürs Klima, fight every crisis, cioè combatti ogni crisi. Qui è un da Asia Blog, una ripresa dai tetti di New York, probabilmente il Lower East Side, direi, Avenue A, B, C, e c'è gente che si esercita, fa le attività più diverse, molto, molto caleidoscopico. È bello pensare alla varietà umana di New York, c'è anche uno che cerca di lanciare un aquilone. Tutti segregati, separati, e però potremo andare sui mezzi al 30% la capienza massima in metro, al 50% delle nord, gli autobus extraurbani che hanno un tragitto più lungo dovranno essere occupati solo in ragione di uno ogni 4, mentre gli autobus urbani uno ogni 2 circa. Ragionavo sul fatto che forse se uno proprio deve prendere i mezzi pubblici, che ovviamente comportano dei problemi, vabbè, saranno contingentati gli ingressi in metro eccetera, forse se uno deve proprio prenderli, io li dovrò certo prendere perché abito dall'altra parte, abito nella parte opposta alla città in cui lavoro, ma comunque forse però i mezzi di superficie sono meno pericolosi, insomma pericolosi, bisogna proteggersi ovviamente. Il meglio sono le bici. È una buona notizia che è stata ripresa anche da Greta Thunberg, è che si stanno allargando le corsie ciclabili, si stanno disegnando rapidamente con strisce corsie ciclabili. C'è un progetto di genitori antismog per rendere pedonabile finalmente il corso Buenos Aires. Insomma, si fa di tutto per scongiurare il ritorno all'auto privata, che si è già visto in Cina, ovviamente per tutta una serie di motivi legati al maledetto Covid-19 che ci ha sconvolto la vita. E appunto qui Disco Radio che dice una notizia importante, però: scarcerati i 4 anarchici arrestati per le tensioni di Torino. In verità sono più autonomi, ma insomma io non faccio differenza. Niente, qui c'è un nuovo libro di Mike Davis, che l'ultima volta che l'ho visto in foto era ai tempi di City of Quartz, era il 92, era biondo. Adesso è un signore però sempre combattivo. Lui è stato un meatpacker, un lavoratore dei macelli, è un organizzatore sindacale, adesso ha i baffi bianchi, occhi azzurri che non lasciano adito a replica. E la PAH di Barcellona, cioè il movimento contro gli sfratti che ha lanciato Ada Colau alla guida della città, organizzava un'assemblea online, sono ripresi gli sfratti, perché ovviamente con la crisi la gente non ha più reddito, e quindi ci sarà il martedì 28 aprile una carcerolada alla banca. Oggi è il 23, dopo domani è il 25 aprile, sarà una liberazione in gran parte virtuale. Ci sarà il coro dai balconi Bella Ciao alle 3 e dalle 6:30 la diretta streaming di Partigiani in ogni quartiere su Facebook, autistici e anche su Radio Popolare. Ci sono The Gang, ci sono... c'è il Piotta, ecco, il Piotta è quello che di sicuro mi metto online per sentire lui. Niente, da Quartz, i Soft Boys, appunto, Pink is their shade. Il pink è il loro colore, cioè insomma diciamo l'evoluzione ai tempi della generazione C del metrosexual. Ok, negli Stati Uniti il diffondersi del virus fra i lavoratori dell'industria delle carni ha fatto sì che molti stabilimenti, molti mattatoi abbiano chiuso, che è un bene di sicuro per gli anarco-vegani, ma dal punto di vista di chi vuole continuarla a consumare, ciò ha comportato l'aumento enorme dei prezzi al dettaglio. Qui ci sono due costolette a $8.45. Niente, secco qui è L'Important, un aggregatore francese, che dice che, secondo alcuni studi, il coronavirus resterebbe più a lungo nell'organismo dei pazienti più gravi, quelli che richiedono un'ospedalizzazione. Non è zecca mica tante il Sala, però adesso cerca di mettersi in buona luce a sinistra dopo essersi messo contro le tasse ai ricchi, però dice che la crisi deve essere l'opportunità per riflettere sui diritti, per esempio regolarizzare i lavoratori braccianti in agricoltura. Ora sono molto lontani da Milano, magari bisognerebbe occuparsi anche dei diritti di chi lavora a Milano, delle precarie e dei precari. I medici di base contro la fase 2 lombarda perché non pone rimedio ai troppi errori della fase 1, fra cui un mancato presidio del territorio, un mancato sostegno ai medici di base, la mancata costituzione di una rete di supporto, anche di raccolta dati e di monitoraggio attraverso tamponi e test sierologici. E qui a Milano in Movimento riporta il flyer di Partigiani in ogni quartiere, musicisti e artisti in streaming in una grande piazza virtuale unita nei valori dell'antifascismo. A partire dalle ore 18:30, musica, interventi e testimonianze resistenti, liberi di resistere. Qui c'è un'altra variazione con un disegno di Zero Calcare che sarà parte della maratona. Qui invece un manifesto Primero de Mayo, coordinadora Roja Negra, è un poster anarcosindacalista della CGT, sottoscritto anche dall'USI italiana, dalla SAC svedese, da Solidarité Ouvrière ed altre, dalla SENTE francese, da altre organizzazioni anarcosindacaliste europee. Viva il El primero de mayo y viva la clase trabajadora. Mi castigliano est un vash español. Comunque, vabbè, l'avete capito. E insomma, quindi nel mondo ci si appresta anche a celebrare il primo maggio. Secondo uno studio riportato da Le Monde, 60.000 morti sono stati evitati dalla quarantena. Niente, il Wall Street Journal riporta che sono molte le catene che hanno avuto accesso ai crediti che invece sarebbero dovute andare ai piccoli negozianti. Insomma, i grossi si mangiano i piccoli, come in ogni crisi. Qui invece c'è la Filcams, il sindacato dei lavoratori del commercio, piuttosto poco combattivo. Cioè, in Lombardia la Wiltux, almeno ai tempi di Chain Workers e dopo, aveva delegati più vicini al movimento. Comunque, per esempio, però l'IKEA ha intentato causa, poi persa contro una mamma lavoratrice che l'azienda aveva licenziato. E qui riporta il poster dell'Ampi, bello, molto bello, vintage, bella ciao in ogni casa, l'hashtag, un'invasione di memoria, alle ore 15 da ogni balcone d'Italia, Antifa forever. Dunque, shock a Filadelfia, le salme caricate su un pick-up, un camioncino, quelle aperte dietro come se fossero oggetti. E qui c'è il bastardo Kurz, odiatissimo, che però, anche per il fatto che ci ha chiuso il Brennero, è riuscito a controllare la pandemia. Hanno scritto, non si sa quanto ironicamente, Kurz uguale Jesus. E qui c'è appunto una riflessione che dice che si appresta a ricontrattare il peso nella coalizione a sfavore dei Verdi, che sono in coalizione con lui. Qui un muro francese, una copy art, una copy protest, dice: «Vous ne confinerez pas notre colère», non confinerete la nostra collera. A rue de Maraîchers, a Parigi, penso. La Merkel si sta un po' allentando e dice: tempi straordinari, in gioco tenuta Europa, la Germania è pronta ad aumentare il suo contributo al bilancio europeo. Quindi in apertura di vertice imminente del Consiglio europeo si registra un'apertura della Germania alle posizioni italiane, che sono anche poi in gran parte condivise da Spagna, Francia e Portogallo. Portogallo, dove il governo di sinistra ha avuto successo nel controllare l'epidemia. L'immunità collettiva, si dice in francese, o l'immunità di gregge in inglese, è ben lontana dall'essere raggiunta. A Milano le stime variano da 10 al 30, non so quanto siano attendibili questi numeri, comunque se pensiamo che bisogna arrivare a 60, insomma, siamo ben lontano. Certo è, se si registrasse una percentuale più ampia di contagiati, vuol dire che il virus incontra maggiori barriere a circolare, ma le barriere che deve incontrare sono quelle delle mascherine, soprattutto in uscita, ma anche in entrata, perché il Corriere della Sera ha riportato un potere filtrante delle chirurgiche molto basso, il 30 mi sembra, che non risponde alla letteratura tecnica che ho consultato, dove invece dice un 60%. C'è poi si può escogitare poi la soluzione consigliata da vari chirurghi di metterne due, cioè metti la prima normale e la seconda al contrario, e così filtra di più in entrata e si sta più tranquilli. Mascherine sempre e guanti, probabilmente fino a Capodanno 2021. Qui c'è un libro in uscita di Andrew Liu, Tea War, A History of Capitalism in China and India. Ve lo consiglio. E qui c'è un memo che è arrivato a Vice, in cui si registrano le manovre della compagnia per screditare Smalls, l'organizzatore nero dei lavoratori del magazzino di Staten Island, che poi manovre che poi lo porteranno a essere licenziato. C'è una casa di lavoro di fronte al National Labor Relations Board, che è l'organismo che aggiudica le dispute sul lavoro creato da Franklin Delano Roosevelt. Niente, qui c'è una bella foto di Gerda Taro, che era la compagna di capo, rimasta uccisa nella guerra civile. Non so molto di Gerda Taro, ammetto, la conosco da 3 giorni, quindi, però invece conosco alla fine Simone Weil, che appunto combatté, pare non fosse una grandissima combattente, comunque si unì alla colonna Dorruti, e qui c'è una foto delle miliziane addestrate, bellissima foto, nel 36, l'anno che nacque mio padre. Dunque, c'è un altro dei casi di deregulation assassina di Trump, che ha allentato i controlli nelle case di cura, nelle case per gli anziani, dove si è registrata una strage pari a quella della Lombardia. Anche Spagna e Francia molto toccate. E comunque il riot è ritornato in piena quarantena, la banlieue di Parigi è esplosa per 3 giorni dopo che le macchine degli sbirri avevano aperto una portiera contro un motorino di proposito, mandandolo giù, spaccandogli la gamba, mi pare una frattura addirittura esposta. E da quel punto a Villeneuve-la-Garenne, dove si è verificato il fatto, ma poi anche in altre città come Tolosa, Nanterre e in altre città di Parigi si sono sollevati. Si è sollevata la gioventù della N, no? Black, Blanc e Beur, afro-arabi in prevalenza, con barricate in fiamme e scontri, tanto che la Reuters ha dovuto intervistare il ministro degli interni francese. Niente, Brand Workers, un'organizzazione a cui sono molto legato, sono i food workers americani, stanno facendo una raccolta fondi per celebrare il 1° maggio e sostenere tutti i lavoratori del commercio, della grande distribuzione, che hanno perso il lavoro a causa del Covid. Io ho dato il mio piccolo contributo, spero che possiate fare altrettanto, anche se capisco che sono tempi duri per tutti. E niente, qui una riflessione di John Cho dell'LA Times sulle discriminazioni, sulla violenta intolleranza contro gli Asian Americans, la xenofobia, ma che poi si è estesa a chiunque abbia la sfortuna oggi in America di avere tratti asiatici. La fame sta aumentando nel mondo e a Milano pure, nei paesi del terzo mondo, in Africa, si prevede un raddoppio dei bambini morti di nebbia. Mi ha colpito oggi nel mega caseggiato vedere la creazione di un food exchange dove la gente può lasciare il cibo e prenderlo chi ne è sprovvisto. Ho visto che comunque la gente è generosa e insomma lo spirito di solidarietà delle brigate è diffuso. Le brigate devono incarnare un'alternativa politica alla mala gestione dell'epidemia che ha fatto decine di migliaia di morti, ormai viene 25.000 in Italia, 12.000 in Lombardia, una strage, un massacro, un'ecatombe. Niente, esatto, qui ottimo, Driving Guild, il sindacato dei conduttori Uber, ha riorganizzato la flotta delle automobili per consegnare beni di prima necessità. Niente, la Grecia, che ha paura di non vedere un turista, sta valutando l'idea di un passaporto della salute con cui i turisti possono andare nelle isole, Santorini, Mykonos, eccetera, sembrano molto lontane. Niente, qui il problema del pagamento dei sussidi è comune anche agli Stati Uniti, almeno soprattutto negli Stati del Sud. qui il Sunrise Movement, il movimento climattivista vicino a Alexandria Ocasio-Cortez, dice che meno di 3% delle persone che hanno chiesto il sussidio in Florida hanno ricevuto il pagamento. Ieri c'è stata una conferenza stampa live su Zoom riportata su YouTube con Varoufakis, che cerca insomma di rimettere in pista il suo movimento euroradicale, eurorepubblicano, eurofederale, ma sinceramente i tempi non sembrano molto propizi, c'è un ritorno allo Stato-Nazione impressionante. E anche un tramonto dell'ideale europeo. Vediamo però se domani ci sarà un colpo di reni, insomma, no? È già stato fatto un danno grande, ma voglio dire, se le nazioni europee vanno sparse di fronte al nuovo mondo che si prospetta, siamo i classici vasi di coccio, per usare una metafora manzoniana super abusata. Niente, i sindacati di piloti sono incazzati con le compagnie perché la sanificazione degli aerei non avviene secondo le norme internazionali, sanificazione che dovrà avvenire in tutti i negozi, i luoghi di lavoro che saranno aperti progressivamente, di fatto anche prima del 4 aprile, perché già altre attività verranno riaperte in questi giorni. Qui c'è un articolo sempre di Vice dove si vede tutta una serie di cubicoli a 2 metri l'uno dall'altro sotto una cupola di plexiglass, e quindi qui c'è un commento che dice: rispetto alla work from home workforce, che ormai si usa molto questo acronimo WFH, dice you're not going back to normal office life for a long, long time. Cioè prevede che saranno una minoranza quelli che potranno tornare in ufficio, mentre gran parte dei white collars, degli impiegati, continueranno in modalità telelavoro. E però noi sappiamo che gli altri lavoratori non possono permettersi questo lusso, e i lavoratori delle consegne prima di tutti. Amazon ormai inondata di ordini e fa il contrario di quello che ha sempre fatto, cioè cerca di razionare gli ordini e di invitare i suoi consumatori a ordinare di meno. Speriamo che questo si tramuti in un successo di mercato dei piccoli esercizi che fanno consegne con modalità e-commerce, insomma alla fine voglio dire una carta di credito è un sito e la voglia di consegnare, tanti piccoli esercizi lo fanno, dobbiamo contrastare il dominio del megalita Amazon, al limite Alibaba di Jack Ma, possiamo ricorrere a lui, almeno metterli in concorrenza uno contro l'altro, ecco, diciamo. No all'unipolio. Niente, qui appunto Reuters, le immagini degli scontri, cioè tempestate le forze dell'ordine di fuochi d'artificio. Fase 2 nei parchi. In Italia, giardini aperti per le passeggiate dei bambini nel corso dei runner. Oggi ho portato mio figlio con la mascherina a fare un giro, a vedere i soffioni, a vedere gli alberi, insomma siamo riusciti a stare lontano da qualsiasi essere umano ed era molto felice, era un sacco di tempo che non usciva. Niente, qui gli European Greens che cercano di puntare sul EU Green Deal come componente essenziale del Recovery Plan. Qui c'è, come sapete, ieri era Earth Day, l'avevamo annunciato nella trasmissione precedente, e qui c'è un pezzo vintage interessantissimo, Walter Cronkite, il mega giornalista televisivo americano liberal che ha segnato tutta la generazione del Vietnam, che riporta dal very first Earth Day con un blocco dell'aeroporto di Washington, insomma, capito? Quindi 50 anni prima di Hong Kong c'era già chi bloccava gli aeroporti, e loro l'hanno fatto per le ragioni di Greta. Niente, vabbè, Fontana che dice di fare qualsiasi cosa, allucinante, cioè, manco fosse, parlasse di calcio, che cazzo ne so, ma cosa rifareste ogni cosa, hai fatto una cagata, diresti, ho fatto gli errori, cioè, cerca, chiedi clemenza, di, ho fatto una serie di stronzate, ma sono state dettate dall'emergenza, cioè, scaricala su Gallera, no, vabbè, è un babbo. Cioè, tanto comunque ormai è Salvini che comanda a Milano, porca troia. Cioè, dobbiamo stare attenti perché qui si profilano le comunali ed è la corsa della sfiga. Perché da un lato Fontana e Gallera che hanno ammazzato la gente prendendo, non tamponando i sanitari, mandando i malati di Covid nelle residenze per anziani. Dall'altro c'è Sala che... tolto dal suo ecosistema, crescita, marketing, eccetera, ha dimostrato una certa inconsistenza. Cioè, certo, comunque ha avallato il lavoro delle brigate, però insomma non si è sentita tutta questa presenza del sindaco in città durante la pandemia. Insomma, cioè, quindi dobbiamo pensare forse a una terza soluzione. Cioè, non possiamo consegnare la città alla destra. Però oggi come oggi Sala ha diversi handicap come candidato, troppi forse. Non so, fatemi sapere, sono aperto a tutto. Cioè, comunque la cosa che mi preme più delle elezioni è quando si torna a manifestare. Quando si torna a manifestare, perché il lavoro ha salvato e la regione no, questo è il problema. È il virus was mortal, es el capital. E con questo vi saluto. Dopo di me dovrebbe finalmente andare in onda la trasmissione di Stefo, che per problemi di mancato coordinamento non è riuscita ad andare in onda la scorsa settimana. Ci sentiamo giovedì di qui al 1º maggio. Ciao!